2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 e questa è la nostra ultima puntata per il 2017. Ci lasciamo alle spalle un anno che sicuramente non verrà ricordato per un prodotto in particolare, perché nessuno dei prodotti, ma devo dire che nessuno dei servizi anche che sono stati lanciati nel corso di quest'anno ha creato una discontinuità con il passato. Ma sicuramente la cosa positiva è che verrà ricordato il 2017 per una maggiore consapevolezza su alcuni megatrend destinati a cambiare la nostra società. A proposito di megatrend e di fallite aspettative o fallite previsioni di quelli che avevano delle aspettative, molti dicevano sarà l'anno della realtà virtuale. Nulla di tutto ciò non pervenuta. Se mai ci sarà un boom della realtà virtuale, deve ancora arrivare. A meno che non faccia come il 3D, uno dei più grandi fallimenti degli ultimi anni sui televisori, ma anche al cinema, il 3D non è particolarmente apprezzato dai consumatori. Però sulla realtà virtuale ci sono effettivamente alcuni utilizzi, ad esempio in ambito lavorativo, per anche insegnare ad alcune persone che devono fare degli interventi. Insomma, ci sono alcune applicazioni della realtà virtuale che potrebbero essere interessanti, però per il momento non abbiamo visto moltissimo. Dicevo invece, maggiore consapevolezza su alcuni megatrend, potremmo individuarne alcuni. Allora, il primo è sicuramente cyber security. Abbiamo sentito anche quest'anno tantissime notizie su attacchi informatici, attacchi hacker, tantissime. Direi che forse la più eclatante è quella che riguarda WannaCry. È stato l'anno di WannaCry, i disastri che ha combinato WannaCry, non tanto perché WannaCry fosse particolarmente sofisticato, ma perché in giro per il mondo tantissime persone, tantissimi addetti ai lavori non avevano adeguatamente aggiornato i sistemi. E qui ancora una volta ribadiamo l'importanza dell'aggiornamento. Però in generale, insomma, i problemi legati alla cyber security sono stati discussi. Direi che a tutti i livelli ho sentito parlare sempre più spesso di sicurezza digitale. Le aziende, almeno quelle di medie grandi dimensioni, investono più soldi nel settore. Questo è un dato ormai chiaro a tutti. Chi si occupa di security ha bisogno di esperti, sempre più bisogno di esperti, e qui si apre un grande problema e una grande opportunità. L'opportunità è che ci sono posti di lavoro se uno è esperto del settore. Il problema è che molte aziende che si occupano di cyber security non trovano facilmente gli esperti di sicurezza. Tra l'altro, gli esperti italiani sono bravi e quindi sono richiesti anche all'estero, e alcuni magari decidono di andare a fare consulenze per altri paesi o in altri paesi per altre aziende. Comunque questo è un settore da tenere d'occhio, perché è sicuramente uno di quelli in forte crescita. Poi, altro megatrend che ci accompagnerà ancora per anni, direi che questo è forse stato l'anno del boom di Industria 4.0, complici sicuramente anche gli incentivi statali, ma visto che poi questi incentivi finiranno e invece Industria 4.0 è una necessità fortissima e anche una grande opportunità per molte aziende, beh, questo è stato un anno molto interessante, perché almeno è diventato un tema di dibattito, almeno di dibattito. Poi le grandi aziende, sicuramente le grandi aziende, ma anche molte medie aziende italiane, tipicamente le nostre aziende che rappresentano la nostra manifattura e che sono capaci di esportare il nostro know-how, hanno già investito e investiranno in progetti di Industria 4.0, di digitalizzazione dei processi produttivi. Questa è una, come dicevo prima, una necessità per adeguarsi a quello che sta succedendo in tutto il mondo, ma una grandissima opportunità, perché abbiamo aziende straordinarie che con il plus, diciamola alla latina, che può dare il mondo digitale alla manifattura tradizionale, beh, possono e potranno fare ancora molto di più. Poi potremmo citare non tanto le criptomonete e i bitcoin, ma quello che sta dietro la tecnologia blockchain. Se ne è parlato molto, in pochi probabilmente hanno veramente capito di che cosa stiamo parlando, però abbiamo cominciato a porre le basi per qualcosa che succederà nei prossimi anni. Molti esperti dicono che per applicazioni vere e proprie di blockchain ci vorranno ancora molti anni. Molti ritengono che blockchain è una tecnologia destinata a cambiare molte cose che succedono oggi, magari in modo trasparente, cioè i consumatori non si accorgeranno che dietro a un servizio ci sarà blockchain, ma molti di questi servizi diventeranno più sicuri, molto più efficienti, e su questo insomma tanti sono allo studio. Abbiamo posto le basi, dicevo, pochi hanno effettivamente capito di che cosa stiamo parlando, anche perché in effetti molti dei temi legati a blockchain e bitcoin sono complessi, molto complicati. C'è tutto un mondo che sta crescendo, a parte tutto il tema finanziario, di cui non ci occupiamo 2024, ma c'è un tema tecnologico di cui magari cominceremo a parlare un po' più spesso nel corso del 2018, anche se alcune questioni effettivamente sono molto complesse, quindi rischiamo di toccare temi poco comprensibili. Dunque, per il 2018 sicuramente ancora occhi puntati, vabbè, oltre a questi temi che abbiamo citato, ne citerei un altro: auto elettriche. Vedremo uno sviluppo soprattutto delle infrastrutture che sono necessarie per ricaricare le automobili, e il prossimo anno sarà un anno molto importante da questo punto di vista. Ma oltre allo sviluppo delle auto elettriche, su cui tutti i produttori hanno annunciato investimenti, direi che il prossimo anno sarà un anno molto importante per le auto connesse, per la connettività a bordo delle auto. Per un motivo particolare. Allora, dal prossimo aprile, dall'aprile del 2018, tutte le nuove auto vendute nell'Unione Europea dovranno essere obbligatoriamente equipaggiate con la eCall. Che cos'è la eCall? Se ricordate, ne abbiamo parlato 2024, un tema di cui ci siamo occupati perché in modo particolare in Lombardia un paio di anni fa c'è stata una sperimentazione di questa cosa che si chiama appunto eCall, chiamata elettronica, chiamata di emergenza. Soprattutto la E sta per emergency call, chiamata di emergenza. Che cos'è? Un sistema a bordo delle automobili che appunto verranno vendute a partire dal prossimo aprile, che in caso di collisione, in caso che un'automobile faccia un incidente, un tamponamento, finisca contro ad un ostacolo, finisca fuori strada, ci sono dei sensori, degli accelerometri, tutta una serie di sensoristica che fa scattare automaticamente una chiamata al 112, che è il numero europeo d'emergenza. Tutte le regioni in teoria dovrebbero entro l'aprile del 2012 avere un centralino che associa tutti i servizi di emergenza in un unico numero, appunto nel 112. Che cosa succede? Che scatta automaticamente una chiamata al servizio d'emergenza, e in quel momento l'operatore si collega con l'automobile e chiede informazioni al passeggero o ai passeggeri. Se tutto, magari uno ha fatto un lieve tamponamento e non è successo nulla, e uno risponde e dice: guardi, non abbiamo bisogno di nulla. Oppure abbiamo bisogno effettivamente di un servizio di emergenza, o ancor di più se la chiamata, l'operatore che fa questa chiamata automatica non riceve risposta, beh, automaticamente vengono inviati i soccorsi, perché ovviamente l'auto è anche geolocalizzata. Allora, tutto ciò per dire che se a bordo obbligatoriamente deve esserci una SIM, è molto semplice e molto facile per i produttori mettere a bordo non solo una SIM voce, ma anche una SIM dati. Allora, da lì a creare una connettività di bordo per altri servizi, ad esempio di informazione, di intrattenimento di bordo via internet, il gioco è molto facile. Perché? Perché a quel punto tutte le automobili saranno equipaggiate, avranno un equipaggiamento di base tale per cui, insomma, connetterle poi alla rete per tutta una serie di servizi sarà molto semplice. Quindi direi che il 2018 sarà l'anno in cui verranno poste le basi per le auto connesse, che in futuro saranno il 100%. nel giro di qualche anno, ovviamente. Adesso abbiamo alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da un investimento italiano. Ogni tanto ci sono degli investimenti interessanti in Italia nel mondo tecnologico. Molti di voi conosceranno sicuramente Chili, C-H-I-L-I, Chili, una delle più note piattaforme di videonoleggio digitale specializzata in film di prima visione a noleggio singolo, come si dice, video on demand puro, senza abbonamenti, quindi non da paragonare a servizi come Netflix, che invece richiedono un abbonamento e non hanno film nuovi. Allora, nell'azionariato di Chili è entrata la famiglia Lavazza, quella del caffè, che quindi diversifica, e ha acquistato il 25% per 25 milioni di euro. Ricordiamo che oltre ai fondatori, fra cui Stefano Parisi, in Chili hanno piccole quote anche Sony, Paramount e Warner Bros. Il 2018 sarà un anno interessante per le missioni spaziali, ne abbiamo parlato. 2024 dovrebbero arrivare a destinazione le missioni lunari collegate allo XPRIZE di Google, quindi dei robot che passeggeranno sulla Luna. E anche SpaceX potrebbe mantenere la promessa di portare entro il 2018 due persone attorno alla Luna. Allora, tutto però dipenderà dallo sviluppo del Falcon 9 Heavy, il razzo più potente attualmente sul mercato, che dopo lunghissima attesa, dopo tanti rinvii, è finora almeno apparso proprio in questi giorni, nelle ultime ore, apparso in verticale su una rampa di lancio di Cape Canaveral. Questo razzo infatti è destinato alle missioni verso Marte e su questo lanciatore, che deve volare una prima volta in assetto dimostrativo, Elon Musk ha promesso di mettere come carico, perché ci deve essere un carico a bordo per dimostrare che il razzo funziona, allora ha detto: mettiamo una Tesla, mettiamo una bella automobile e la spariamo nello spazio, così per fare un po' di cinema. Un'altra particolarità del Falcon 9 Heavy è che è formato da tre Falcon 9 normali, quindi è una somma di tre razzi di quelli che vengono lanciati attualmente, e tutti e tre i primi stadi faranno rientro alla base, come ci ha abituati a SpaceX con questa tecnologia veramente sorprendente. Vedremo quando verrà lanciato, se tutto andrà bene dovrebbe essere lanciato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Allora, parliamo di mobilità elettrica, perché è stato annunciato un nuovo progetto per la costruzione di una rete di ricarica per veicoli elettrici. Si tratta di una cosa che si chiama E-Via Flex E, condiviso fra Italia, Francia e Spagna, con 14 stazioni di ricarica ultraveloce, quindi quelle più potenti. A guidare il progetto è Enel, quindi la cosa è interessante per l'Italia, assieme ad altre utility, e poi c'è anche Renault e Nissan. Questo progetto si somma ad altri in cui Enel è protagonista. Devo dire che Enel è molto attiva in questa nuova era della mobilità elettrica per quanto riguarda la costruzione delle infrastrutture. Il più importante di questi progetti si chiama EVA Plus, che entro il 2018 metterà sul territorio, non solo in Italia, 180 stazioni di ricarica. Allora, si è rifatto vivo John McAfee, il bizzarro fondatore dell'azienda di sicurezza McAfee, che portava il suo nome, venduta nel 2011 alla Intel. McAfee, che è un personaggio effettivamente molto stravagante, questa settimana ha detto che il suo account Twitter è stato hackerato e usato per promuovere delle criptomonete poco note. Sapete che ci sono tantissime criptomonete oltre ai Bitcoin. Allora, McAfee avrebbe detto di aver attivato l'autenticazione a due fattori, perché la BBC lo ha chiamato e gli ha detto: ma non è che tu non avevi un account molto sicuro. No, io ho fatto l'autenticazione a due fattori, che è quella per cui arriva un codice via SMS o via app da inserire oltre alla password. Ma secondo McAfee l'hacker avrebbe intercettato il codice e compromesso il suo account. Dice: ma hanno proprio preso di mira. Ricordiamo che McAfee, oltre a fare video per consigliare l'acquisto di criptomonete, quindi non è che lo hanno hackerato e messo così annunci su criptomonete a caso, visto che lui è molto attivo in questo settore, John McAfee sta lavorando a quello che definisce lo smartphone più sicuro al mondo, che dovrebbe arrivare sul mercato in febbraio. Un'ultima notizia molto interessante riguarda Uber, un consorzio guidato dalla giapponese SoftBank. Acquisto che si chiama SoftBank, ma è principalmente un operatore telefonico, nonché venture capital. Allora, acquisterà una quota del 17,5% di Uber in una operazione fra le più importanti nella storia delle start-up per un valore di, attenzione, 9 miliardi di dollari. Allora, la sola SoftBank avrà il 15% e diventerà il principale azionista di Uber. In base a questa operazione, la valutazione di Uber è di 54 miliardi di dollari. Allora, in Europa, complice anche un'ultima e recente sentenza su Uber, questa società non si sta sviluppando tantissimo, soprattutto non si sta sviluppando tantissimo nella sua versione popolare, cioè quella che permette a chiunque di diventare un autista. Ma state attenti, perché nel resto del mondo, soprattutto nelle Americhe, negli Stati Uniti, ma recentemente parlavo con Emiliano Guanella, che è il nostro collaboratore corrispondente dal Sud America e sta in Brasile, dice che lì ci sono tantissime, ma centinaia di migliaia di persone che si sono messe a fare gli autisti di Uber, e Uber è diventata una modalità per spostarsi molto economica. Quindi in tutte le Americhe Uber, negli Stati Uniti ad esempio c'è Lyft che sta facendo una concorrenza molto forte a Uber, e anche in Asia questi servizi stanno esplodendo, quindi non c'è da stupirsi di queste valutazioni. E qui effettivamente c'è una grossa differenza anche in termini di comprensione dello sviluppo tecnologico, perché tutto si basa su un'applicazione fra Europa e il resto del mondo. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Sicuramente il 2018 sarà molto interessante anche per lo sviluppo di questi sistemi, se non in Europa, ma anche in Europa vedremo magari alcune decisioni che verranno prese per l'utilizzo in varie modalità delle applicazioni per trasformare il business del trasporto pubblico. Dovranno essere prese delle decisioni, vedremo anche il nuovo governo che nascerà dalle prossime elezioni che tipo di pensiero avrà su questo. Ma come spesso si dice, dovrebbe essere l'Unione Europea a prendere una decisione e stabilire regole uguali in tutta Europa, magari anche compensando chi oggi, ad esempio come sono i tassisti, sono nati con regole di tanti anni fa e ovviamente devono affrontare il futuro. Le persone vanno accompagnate ad affrontare il futuro anche con adeguate compensazioni, però il mondo cambia e quindi bisogna cercare di interpretare anche questi cambiamenti, che poi sono business colossali perché muovono milioni di persone in tutto il mondo. Adesso prendiamo spunto da una notizia di questa settimana, perché Apple ha chiesto scusa. Uno dice: ma perché Apple chiede scusa? Approfittiamo di questo per parlare poi di smartphone, di batterie dello smartphone molto importanti e anche di aggiornamenti software, perché c'è un legame sempre più stretto tra l'hardware e il software che ci gira sopra. Ne abbiamo parlato molto spesso e questo succederà anche sulle automobili. Proprio pochi giorni fa, in questi giorni di feste, magari vedi persone che non incontri da molto tempo, parlavo con una persona che si occupa di automobili e dello sviluppo anche digitale delle automobili, parlare di come una volta alcune persone commentavano l'arrivo della iniezione elettronica dicendo: ah, non c'è da fidarsi delle centraline elettroniche. Oggi tutte le automobili sono basate su centraline elettroniche, che sono, direi, vista l'esperienza, sono piuttosto affidabili, e nei prossimi anni dalla centralina elettronica che fa poche operazioni, governa magari alcune parti del motore ma non tutta l'auto, oddio, è vero che nelle nuove auto buona parte dell'automobile, ma nei prossimi anni saranno sempre più i servizi di bordo controllati dal software, molto di più di quello che accade oggi, anche grazie a sistemi di intelligenza artificiale che prenderanno delle decisioni se non proprio di guida autonoma, di guida semi-autonoma, con sistemi che magari saranno sempre più bravi a decidere se frenare o non frenare di fronte ad una situazione. E ci sono alcune persone che giustamente si preoccupano dell'affidabilità di questi sistemi, di questi servizi, ma bisognerà lavorare per renderli sicuri anche da attacchi esterni, da attacchi informatici. E molto si sta facendo già oggi. Bene, allora dicevo prima di Apple e delle scuse, per parlare di questo è con noi Gianfranco Giardina, Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024, ciao. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Noi prendiamo spunto da una notizia di questa settimana che arriva da Apple, che ha scritto una lettera di scuse ai propri clienti, partendo da una serie di, da una scia di polemiche che sono andate avanti mesi, una serie di sospetti dopo un aggiornamento software. Allora raccontiamo quello che è successo, giusto per chiarire, e chiariamo anche che non parleremo di Apple solo, parleremo in generale dell'importanza delle batterie, di come le batterie si comportano negli smartphone, di come il software riesce a cambiare il funzionamento di un telefono anche in relazione all'invecchiamento e al degrado della batteria. Sono tutti temi molto interessanti che raccontiamo e di cui parliamo prendendo spunto, certo, da questa notizia. Allora partiamo da un anno fa. Un anno fa succede una cosa. Succede che Apple rilascia un aggiornamento al suo sistema operativo iOS 10 all'epoca, e questo aggiornamento comporta su alcuni telefoni più datati un visibile rallentamento, soprattutto in alcune condizioni, un rallentamento che comunque noi siamo abituati a vedere con le nuove versioni, nuove release di sistemi operativi che sono magari più complicati, sono più evoluti, richiedono più risorse allo stesso hardware, e quindi un certo rallentamento in ambiti accettabili è quantomeno previsto, tant'è vero che alcuni utenti con telefoni magari non nuovissimi, prima di lanciare l'aggiornamento ci pensano un attimo o guardano in rete quali sono le caratteristiche, quali sono i feedback di quelli che l'hanno già fatto. Sì, questo è importante, vale per tutti i telefoni, anche per il mondo Android, cioè quando facciamo un aggiornamento molto spesso, quasi sempre, questo nuovo aggiornamento, questa, a volte sono anche proprio versioni del software completamente nuove, richiedono maggiori risorse e quindi i vecchi telefoni sono un po' più impiccati. Sì, soprattutto quando sono delle release maggiori, quindi che introducono nuove funzioni. Poi gli aggiornamenti successivi in realtà molte volte migliorano le cose, perché vanno a correggere dei bachi, vanno a risolvere dei problemi di cosiddetto battery drains, quindi di prosciugamento delle batterie dovuti a dei processi che restano aperti, che non dovrebbero esserlo, quindi correggono dei bachi che migliorano un po' la situazione. Perfetto. E in realtà quello che è successo è c'è stato questo visibile rallentamento, un rallentamento che per mesi si è detto... si è sospettato che potesse dipendere appunto da una precisa, addirittura i complottisti vedevano una precisa volontà di Apple di rendere obsoleti anzitempo dei telefoni ancora potenzialmente ben funzionanti. Sì, sì, ricordo il dibattito di gente che diceva ma io ho notato un rallentamento, e altri che dicevano ma no, ti sembra solo, e invece altri no, no, è vero, e davano appunto credito a questa teoria complottista della... Ma la cosa poi strana è che capitava che col medesimo telefono, col medesimo smartphone, in alcune condizioni il rallentamento c'era, in altre condizioni il rallentamento non c'era, quindi sembrava quasi un folletto dispettoso che rendeva il telefono più lento in alcuni frangenti e invece normalmente veloce in altri frangenti. In realtà cosa è successo? Qualche settimana fa uno sviluppatore ha scoperto e dimostrato che nel codice di iOS è stato inserito un sistema di controllo della velocità praticamente del processore e anche di altri fattori che effettivamente finiva per rallentare il telefono. È scoppiato un caso internazionale, ovviamente gli utenti sul piede di guerra, perché sembrava essere in qualche modo reale la teoria dei complottisti, qualcuno ancora lo ritiene. In realtà si è capito quasi sin da subito, anche proprio dallo stesso deduzioni fatte da questo sviluppatore che ha scoperto questo caso, che fosse una sorta di protezione, diciamo così, per difendere gli smartphone dotati di una batteria più usurata. Quindi, piuttosto che far morire il telefono in poche ore, piuttosto che addirittura, come è capitato ad alcuni utenti, farlo morire di colpo, magari batteria 30-35%, spegnimento istantaneo, sì, è capitato questo. Allora, piuttosto di fare questo su apparecchi non tanto vecchi e quindi datati e destinati a un'obsolescenza programmata, ma con una batteria oramai usurata, Apple ha scelto, forse anche ragionevolmente per certi versi, di rallentare leggermente il sistema, ma non solo, di abbassare la luminosità del display, di diminuire il volume massimo degli speaker, di abbassare l'intensità o addirittura annullare il flash in alcuni frangenti, proprio per aumentare l'autonomia della batteria. Perfetto, tant'è che poi Apple ha ammesso questo. Ecco, Apple ha ammesso nei giorni scorsi questo e la polemica non si è placata, ovviamente, e devo dire anche giustamente, Apple ha commesso un errore clamoroso, un errore trasparenza, diciamo. Penso così, che il sistema congegnato da Apple sia ingegnoso e sia anche tutto sommato desiderabile. Due errori grossi di Apple: non averlo comunicato nelle feature, quando presenta il nuovo sistema operativo avrebbe dovuto dire c'è un sistema che allunga la durata della batteria per i telefoni che hanno problemi di batteria, sì, che funziona così. Ecco, e secondo, non aver messo in condizione l'utente di scegliere. Si sa che non è il punto forte di Apple mettere in condizione gli utenti di scegliere. Sì. Diciamo che l'utente Apple sa che è un po' eterodiretto dall'azienda. Se non vuole, c'è tanta altra scelta di tanti altri marchi. Sì, ecco, sì. In questo caso, però, questi si sono rivelati due fatali errori. Mm-hmm. È scoppiato questo grande caso. Apple, in queste ore, ha pubblicato una lettera aperta ai propri clienti chiedendo scusa. Non tanto per il tentativo di rendere obsoleti anzitempo dei telefoni, che non c'è stato, e oggettivamente mi sembra di poter dire che non ci sia stato, ma per non aver comunicato bene, sì. E per aver tradito la fiducia dei propri consumatori, che in alcuni casi si sono sentiti, proprio scrive così la lettera di Apple, abbandonati dal marchio. Sì, tra l'altro non solo la polemica non si è placata, ma sono scattate negli Stati Uniti, dove sappiamo è molto più facile rispetto all'Europa ottenere risarcimenti, addirittura alcuni dicono 9 class action diverse per vari motivi, e quindi sicuramente anche sulla scia di questi tentativi Apple ha, che oltre che chiesto scusa, anche comunicato una serie di rimedi, rimedi. I rimedi che Apple ha identificato sono innanzitutto, diciamo che reintroduce un concetto che a me era molto chiaro, ma nel fatato mondo di Apple forse non lo era più o non lo è mai stato: il fatto che la batteria è una parte di consumo. Cioè, le batterie, contrariamente a un display che finché non si rompe, non si guasta, continua a esercitare la sua funzione in maniera praticamente uguale dall'inizio alla fine della vita del prodotto, la batteria no. La batteria, da quando la compriamo, dalla prima accensione che facciamo in poi, incomincia lentamente o un pochino più velocemente a seconda anche delle abitudini di utilizzo a decrementare le proprie prestazioni. Per esempio, l'abbiamo detto anche altre volte a questo microfono, se la batteria viene sottoposta a temperature molto alte ripetutamente, diminuisce drasticamente la sua vita. Chi dimentica o lascia lo smartphone sul cruscotto dell'auto al sole, ecco, sappia che sta decrementando violentemente la vita e quindi la capacità di accumulare energia della propria batteria. Esatto. Quindi nel mondo Apple questo concetto non c'era mai stato, anzi c'era stato proprio un concetto contrario, no? Quando fu lanciato il primo iPhone e poi tutti i successivi, ci furono grandi critiche per il fatto che per la prima volta un device mobile, per la prima volta uno smartphone, per la prima volta un telefonino, avesse la batteria non removibile. E questo era una cosa che non esisteva, perché si sapeva, tutti sapevano che la batteria durava meno della vita del prodotto e tutti cambiavano le batterie negli smartphone. Di colpo Apple dice no, non c'è bisogno. Ricordo proprio Steve Jobs disse la nostra batteria non è rimovibile perché i nostri utenti non avranno mai bisogno di cambiarla. Ecco, nella lettera Apple reintroduce invece il concetto, che ovviamente è sempre stato valido, che la batteria è una parte di consumo, la batteria si usura. E per questo motivo, dice, abbiamo introdotto, e spiega il motivo per cui è stato introdotto questo sistema. Ovviamente se la batteria è una parte di consumo, la batteria deve essere sostituibile più facilmente. Oggi sostituire la batteria a un iPhone si può fare, si fa normalmente agli Apple Store o ai centri di assistenza autorizzata e costa in Italia 89 euro, indipendentemente dal modello di iPhone, uno per l'altro, con ovviamente la garanzia di farsi fare un lavoro dell'assistenza ufficiale con parti di ricambio originali. E la novità è che Apple ha detto che per tutto il 2018, a partire da quando riuscirà a organizzarsi, quindi dalla seconda parte di gennaio fino a fine 2018, poi vediamo se questa campagna verrà estesa, tutti coloro che hanno un iPhone 6 o successivi e che denunciano problemi di batteria usurata o non più efficiente come all'inizio possono ricorrere a una sostituzione a prezzo calmierato, okay, della batteria. Quindi noi sappiamo per adesso soltanto i prezzi degli Stati Uniti. Sì, sì, esatto. Poi vi rimandiamo al sito italiano per sapere cosa comunque si passa a un prezzo di un terzo circa del prezzo originario. Quindi i nostri 89 euro probabilmente andranno vicini ai 40 euro, 39 euro, io suppongo. Sì, sì, sì. Vabbè, questo è un discorso che vale anche per il mondo Android, cioè si può, e anzi forse in alcuni casi è una buona pratica, cambiare la batteria, che va fatta cambiare effettivamente con il mondo degli smartphone di oggi. Questa abitudine è cambiata drasticamente perché non possiamo più noi ordinare o andare ad acquistare una batteria, togliere. Oddio, tutto si può fare, ma bisogna essere provetti, smontatori di smartphone, cosa che non è consigliabile almeno per tutti gli utenti. Si può anche, io ho amici che cambiano il display, però bisogna mettersi lì con calma e fare, insomma, è un po' rischioso. L'uomo della strada, l'utente normale, ecco perché, deve portarlo in un centro di assistenza o scegliete voi quale per cambiare la batteria, cosa che si deve fare poi sul fatto che le batterie siano sigillate. Ci sono varie teorie anche complottiste legate all'esigenza di servizi segreti, polizie, di poter agire, che è una motivazione assolutamente possibile, insomma, in alcuni casi giustificabile se uno vuol fare intercettazioni su almeno una certa parte di popolazione. Però lasciando da parte tutto questo tema complottista, l'occasione è buona per ribadire quanto è importante per tutti gli smartphone, al di là del caso specifico di cui abbiamo parlato, quanto è importante preservare la batteria, cioè ricordarsi che questo è un elemento fondamentale del nostro smartphone. Sì, infatti, allora, due cose. Uno, la prima cosa, il problema non è un problema, come visto anche in molti commenti, un po' strampalati sulla rete, un problema di iPhone, è un problema di qualsiasi smartphone. Alzi la mano chi ha avuto o ha adesso uno smartphone che non ha nel tempo peggiorato le prestazioni di carica della propria batteria. Se c'è qualcuno lo voglio conoscere, perché voglio sapere che modello è. Non è possibile. Sì, sì, sì, non è possibile. E poi, contrariamente a quello che viene magari pensato per vecchi retaggi di altre tecnologie di batterie, ovviamente le batterie adesso non hanno più l'effetto memoria, quindi non vanno scaricate completamente per poi ricaricarle quando sono completamente scariche. Anzi, al contrario, le batterie di ioni di litio durano di più se vengono caricate spesso. Poco, se vengono spesso mantenute cariche, mm-hmm, no? È il motivo per cui quando noi apriamo uno smartphone e proprio per la prima volta leviamo la cellofana, la confezione, tiriamo fuori lo smartphone, questo è normalmente già carico, perché dalla fabbrica esce al massimo della carica, perché se uscisse scarico e si scaricasse completamente, questo già farebbe partire lo smartphone con un decremento della vita utile della batteria. Per questo tutti i device con gli ioni di litio sono già carichi dalla fabbrica. Sì, no? Sì, è come se facciamo un paragone automobilistico, bisogna girare sempre col serbatoio pieno. Tendenzialmente più possibile col serbatoio pieno. Caricate sempre, appena possibile caricate. Caricate, sì, non è vero che il numero di cariche, perché poi alla fine si parla di autonomia, o meglio di vita della batteria, perché non so, sopporta non so, 400-500 cicli di carica, ma si intende il ciclo intero, non è ogni volta che lo collego allo smartphone perdo un colpo praticamente, cioè all'alimentatore, sì. Perdo un colpo, non è assolutamente vero, sì. Sarebbero 500 cicli di carica pieni o 1000 cicli di mezza carica o 2000 cicli di un quarto di carica, insomma quella è la vita, quindi bisogna collegarlo spesso e la batteria agli ioni di litio è molto sensibile alle temperature, soprattutto quelle alte. Cioè noi siamo stati abituati per anni a batterie che decrementavano la loro capacità di restituire l'energia alle basse temperature, tant'è che si diceva vai in montagna, stai attento che la batteria rende meno. È vero, adesso non è no, più così, è vero, sì, però non si rovinava la batteria, cioè semplicemente al freddo restituiva meno energia, ma in realtà queste batterie invece al caldo, e il caldo non sono 150 gradi, al caldo sono 30, 35, 40 gradi, temperature che in Italia d'estate si raggiungono facilmente, soffrono tanto da micro danneggiarsi, diciamo così, quindi non sono più le stesse il giorno dopo che hanno subito queste temperature, non sono più in grado di chimicamente di incorporare la stessa quantità di carica, esatto. Renderanno un po' meno, e quindi questo oramai sappiamo, più delle volte il ciclo di vita, la vita dello smartphone dipende molte volte dalla vita della batteria. Io ho visto persone, nell'esperienza di tutti, arrivare alla decisione di cambiare smartphone, di farla finita, non soltanto perché c'è il nuovo display, c'è la nuova funzione, perché si è graffiato quello vecchio, eccetera, eccetera, ma il più delle volte perché la batteria non tiene più, si dice. Ecco, allora, avere un po' di cura della batteria vuol dire allungare la vita del prodotto. Oggi, e questo è comunque una buona notizia per gli utenti Apple, al di là di quelli che si sentono appunto traditi, eccetera, eccetera, sapere che l'anno prossimo, sarebbe stupido farlo in questi giorni ovviamente, sapere che l'anno prossimo si può accedere al cambio, alla sostituzione della batteria a un prezzo calmierato e direi al livello, se non fosse addirittura più basso, dei negozi cosiddetti cinesi, riparatori cinesi, che però non usano magari parti di ricambio originali, eccetera, eccetera, è sicuramente un modo per rivitalizzare, per dare vita nuova a uno smartphone datato. Ovviamente lì si verifica quello che Apple sostiene: se viene cambiata la batteria con una batteria nuova e il telefono è ancora rallentato, allora Apple mente. Se invece cambiando la batteria il telefono non ha più rallentamenti perché la batteria è efficiente, allora vuol dire che quel software funziona. Onesta. Sì, sì, esatto. Tu dicevi la vita dello smartphone molto spesso dipende dalla vita della batteria, dipende anche dal software, perché da un certo punto di vista ci dobbiamo oramai abituare, rassegnare, dobbiamo prendere atto che l'hardware ha perso nei confronti del software, perché tutto è guidato dal software. Il caso degli aggiornamenti di software sempre più nuovi e innovativi, e molto spesso questo è dovuto anche da motivi di sicurezza, perché una buona regola sarebbe quella di aggiornare sempre i sistemi operativi, i software, le applicazioni. Ecco, questo è un tema di cui tener conto, perché a volte effettivamente con il nuovo aggiornamento il nostro smartphone è evidentemente datato e la sua vita corrisponde quasi alla fine. Adesso, è difficile fare caso per caso, perché uno dovrebbe fare, però è vero che dopo un po' di aggiornamenti quel telefono va verso la fine della vita. Ma sì, però diciamo che io vedo onestamente più smartphone andare verso la fine della propria vita per la batteria, per la batteria, sì, sì. E perché cascano per terra, si rompe il display, si rompe il vetro, si graffia, non funziona più il tasto, cioè ancora per problemi più però diciamo hardware, che dopo qualche anno effettivamente software. Ma quello allora, sappiamo che le funzioni di questi apparecchi sono abilitate dal software. Molte volte, quando ci sono gli aggiornamenti, quelli maggiori, lo stesso pezzo di ferro cambia volto completamente, aggiunge delle funzioni interessanti, entusiasmanti, addirittura che in alcuni casi rivitalizzano il telefono. Sicuramente uno smartphone non ha la durata di un vecchio telefonino voce, quelli di una volta, sì, che, o di una lavatrice. Ecco, esatto. Sono apparecchi che usiamo molte volte al giorno, contrariamente a una lavatrice, e che invecchiano inevitabilmente prima, spesso e volentieri, a vedere anche le scelte di acquisto degli utenti nei gusti, nelle mode, prima ancora che nelle funzionalità. Sì, sì, sì, sì. Allora, noi non crediamo, tu in particolare, alla teoria della obsolescenza programmata. Che cosa significa obsolescenza programmata? Significa quell'atteggiamento, quella volontà dei produttori, ipotetica, perché poi nessuno l'ha mai dimostrata, di, tramite aggiornamenti software, di far invecchiare volontariamente un software. Nel caso specifico Apple esplicitamente respinge questa accusa dicendo: noi non l'abbiamo mai fatto, non lo vogliamo fare, riteniamo che sia una cosa che non si fa. Poi uno ci crede, non ci crede, però in generale, visto che questo viene dai complottisti ipotizzato per tanti prodotti. Ma allora, siamo in un mondo, chiariamo, dove esistono i sostenitori delle scie chimiche e i terrapiattisti, quindi certo, è tutto veramente possibile. Ogni opinione, io non la voglio discutere, sono opinioni, no, e restano lì. Io ho la mia, evidentemente. Allora, nel caso specifico di Apple, Apple è forse il brand, ma questo è un dato di mercato, il cui usato mantiene maggiormente il proprio valore. Anche sui Mac, certo, assolutamente. E questo lo fa fondamentalmente per due motivi. Primo, perché il marchio ha un valore percepito molto alto, e questo potrebbe essere anche moda, pubblicità e tutto quello che si vuole. Secondo, perché gli apparecchi dimostrano comunque una funzionalità nel tempo che in altri casi evidentemente viene meno, perché se no altrimenti avere uno smartphone o un computer che non funziona, anche se è di moda, insomma non avrebbe alcun valore. Ecco, invece il valore dell'usato è ancora molto alto, basti vedere quali sono le quotazioni a cui viaggiano i telefoni usati, gli smartphone usati di Apple o i tablet, sì, o sì, il Mac, no? Quindi da un certo punto di vista questo è sempre stato un vanto di Apple. Cioè, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, cioè, ma se c'è un mercato dell'usato uno non compra il nuovo. No, il mercato dell'usato fa girare anche il nuovo. Questo vale in tutti i mercati, vale nel mercato dell'automobile. Cioè, sì, sarebbe, sì, come, sì, se un autosalone decidesse di non avere le auto usate, oppure un produttore di auto di come dire, non favorire il mercato dell'usato. Il mercato dell'usato serve per far girare anche il mercato del nuovo. Quindi io contesto il fatto che qualcuno possa pensare che Apple possa avere un vantaggio a rovinare il proprio nome facendo invecchiare più velocemente gli smartphone. I super complottisti ritengono che sia una cosa che fa tutto il mercato all'unisono, quasi un cartello. Difficile pensare però che Apple, che fa cazzotti sul mercato a ogni ora con Samsung, e Samsung con Huawei, e Huawei con eccetera eccetera, con tutti i brand che competono su questo mercato, siano d'accordo tutti insieme per un'obsolescenza programmata, che onestamente non vedo. Vedo piuttosto, e torniamo al discorso delle batterie, che noi vogliamo, perché piacciono, smartphone dal display sempre più grande, però possibilmente più piatti, perché sono diventati più sottili di quello che erano, e più potenti. Vogliamo che abbiano l'intelligenza artificiale all'interno, quindi con processori e coprocessori opportuni. Vogliamo che non siano più monotasking come erano una volta, ma multitasking, quindi devono ricevere segnale GPS, darci la localizzazione, essere collegati alla rete, fare altre cose, fare andare la musica mentre facciamo altro. Tutto un sacco di cose. E dopodiché, in questo meno spazio, vogliamo delle batterie che siano, ovviamente, che durino di più, perché la batteria non tira più sera, ma che problema? Un problema, non è un problema della batteria, è un problema che nello stesso volume noi vogliamo fare un sacco di altre cose, i produttori ci provano, tirano il collo alle batterie, e qualche volta, fin troppo, e l'abbiamo anche visto in un recente passato, quindi... il problema più che altro è che siamo arrivati forse alla fine di un ciclo di vita di una tecnologia, quella degli ioni di litio, e io continuo a ripetere che il produttore che inventa la batteria, una nuova tecnologia che fa un salto tecnologico importante, la batteria che dura una settimana, che dura un mese, conquisterà il mondo, a prescindere dal telefono. Sì, sì, sì, sì. Dunque, gli ultimi minuti per parlare di, sempre di smartphone, che sono, stavo l'altro giorno facendo un ragionamento per un pezzo che poi ho fatto per il GR24 sull'anno della tecnologia, e in definitiva dicevo tra me e me, poi io l'ho anche scritto, l'ho anche raccontato a GR24, non c'è stato un prodotto che ha creato discontinuità che ricorderemo nel 2017, ma gli smartphone rimangono sempre, nonostante tutto quello che si dice che non ci sono delle grandissime novità eccetera eccetera, al top per vendite, per desideri, per interesse dei consumatori. Questo è una costante del mercato, tra l'altro un mercato che continua a crescere, che è incredibile in tutto il mondo. A proposito di smartphone, visto che c'è, questo lo dicono tutti i produttori, un grandissimo interesse verso la fotocamera, quindi la capacità degli smartphone di fare delle belle fotografie, voi avete deciso qualche settimana fa di fare un, come lo avete chiamato, contest, un concorso, una sì, gara? In realtà, proprio anche per il meccanismo, l'abbiamo chiamato un talent. Un talent, perfetto. I cui protagonisti erano degli smartphone. Degli smartphone. Quanti sì, erano? Sì. Un sacco, una dozzina. 11 smartphone, tutti top di gamma momento. Sì. Praticamente uno per brand, per 11 brand, quasi tutti quelli che vi possono venire in mente. Bene. In questo momento. Roberto Pezzali, che lavora alla redazione di D-Day.it, ha preso questa valigia con 11 smartphone, se n'è andato a fare un giro in zone particolarmente adatte a fare fotografie, ha fatto un sacco di foto, e il risultato? Ma un sacco, tante, nel senso che ha fatto una cinquantina di inquadrature, ognuna scattata con 11 smartphone. Stessa posizione, stesse condizioni, possibilmente stesse condizioni di luce, quindi neanche a metterci tanto tempo, bisogna far veloce, quindi prima impostare tutti i telefoni in maniera corretta e dopodiché scattare abbastanza velocemente, perché basta una nuvola, basta che cambi la luce e diventa un grosso problema. Quindi dopodiché che cosa abbiamo fatto? Un lavorone. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto la foto, perché abbiamo fatto la fotografia? Perché noi facciamo le prove degli smartphone, diamo i nostri giudizi, volevamo che fosse il pubblico a votare, e quindi abbiamo detto benissimo, può votare a distanza un lettore di un magazine online come il nostro per la velocità del sistema operativo, per l'usabilità, per i materiali? No, può farlo sicuramente per la qualità dello scatto fotografico, che poi è una delle funzioni più utilizzate. Cioè, vabbè, facciamo questo talent, facciamo votare il pubblico. Sappiamo però una cosa, sappiamo che esistono, ahimè, i cosiddetti fanboy, ovvero quelli che sostengono a prescindere un brand piuttosto che un altro. Ce n'è per fondamentalmente tutti i brand principali. Sì, cioè per tutti i tipi, anche per il vino, il formaggio e la pasta. Ecco, okay. Cioè se il vino è di un tal produttore, poi magari tu dici che è più buono perché sei fan di quel prodotto. Oppure perché ce l'hai. Sì. C'è anche questo problema. Certo. Quindi abbiamo innanzitutto mascherato tutti i nomi degli smartphone. Quindi si sapevano quali erano, ma guardando le singole foto e confrontandole non si poteva sapere quale foto era. Dopodiché le abbiamo pure mischiate, quindi a ogni caricamento della pagina la foto 1 diventava poi magari la foto 7 dell'utente successivo, quindi neanche ci si poteva passare parola votate 1, votate 5, sì, votate 4. Sì. Quindi la foto numero 7 solo voi sapevate che era di quello smartphone. No, la mia foto numero 7 sul caricamento della mia pagina era diversa dalla foto 7, però diciamo sapevamo che noi quale era il voto. Dietro le quinte voi sapevate. Poi anche se qualcuno avesse capito quale era la foto di un tal smartphone, abbiamo fatto in modo tale che oltre un certo numero di voti dallo stesso indirizzo IP venisse scartato, e sicuramente venisse scartato il secondo voto dal medesimo browser, ma non con i cookie, proprio con una sorta di fingerprint del browser. Questo perché? Proprio per sterilizzare gli effetti di chiunque avesse voluto spingere questo o quel telefono. Okay. e per anche far divertire anche un po' le persone, che dovevano anche sapere che cosa avevano votato. Quindi noi rivelavamo dopo il voto: hai votato il Samsung Note 8, per esempio, però dopodiché questo non era più in condizione di rivotare, se non cambiando browser, ma anche cambiando IP. Ok. Questo è molto importante in realtà, perché il risultato è quello che vogliamo poi commentare. Innanzitutto abbiamo fatto 5 puntate, a ogni puntata i 2 telefoni con le minori voti venivano scartati e andavano avanti i successivi con nuove foto, sempre più impegnative. La prima puntata era con foto più semplici in luce piena, poi diventavano quelle un pochino più complesse fino ad arrivare anche al video nella finale. Quindi i telefoni erano 11, 9, 7, 5 e poi sono arrivati in finale 3. E allora i tre finalisti sono interessanti perché, pur essendo stati scelti in maniera del tutto alla cieca, sono stati i tre telefoni, sono quelli più costosi sul mercato. Quindi sono stati l'iPhone X di Apple, il Galaxy Note 8, iPhone X sì, precisamente sì. Di Apple, il Galaxy Note 8 di Samsung e il Pixel 2 XL di Google. E sono, guarda caso, sono di tutto anche il pool, quelli più costosi. Sì, quindi, e non solo più costosi, sono anche, almeno dalle prove che anche voi avete fatto, quelli che effettivamente fanno le fotografie migliori. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice, prima cosa, che evidentemente ci si può discutere se 1000 euro sono giustificabili o giustificati o no per uno smartphone. Ognuno ha le sue opinioni, dipende anche chiaramente dal potere d'acquisto e dipende anche dall'utilizzo che uno ne fa, ma sicuramente dove c'è prezzo più alto c'è anche più valore. Questo è un dato di fatto, perché se no, con questo meccanismo, diciamo, abbastanza blindato, non sarebbero arrivati in fondo. Sì, sì. Anche perché ricordiamo che ci sono state alcune migliaia di voti, quindi... No, cioè, assolutamente, decine di migliaia di voti. Ecco. No? Quindi, diciamo, nel campione. Io posso anche ammettere che qualcuno possa anche aver deciso di votare un po' a caso, senza stare a valutare attentamente. Sì, però su decine di migliaia questo poi... Questo succede fine, anche nelle cabine elettorali, che qualcuno magari vota a caso, diciamo. Quindi noi abbiamo voluto fare questo meccanismo proprio di talent, per cui dice vota il pubblico, votate voi, e quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa interessante è la finale, che aveva un numero di foto più alte con questi tre telefoni, e è stato un testa a testa tra tre telefoni praticamente quasi fino in fondo. Tutti hanno avuto occhio e croce un terzo dei voti, e poi alla fine la classifica finale ha visto vincitore l'iPhone X, ma di misura, tant'è vero che noi in realtà l'abbiamo considerato una vincita formalmente dell'iPhone X, ma un ex aequo, perché in finale, leggo precisamente i numeri, l'iPhone X ha ricevuto 16.789 voti contro 16.588. Sì, quindi sono, quindi proprio uguali. Praticamente uguali, no? E questo sicuramente ha fatto pensare. Di certo, già non solo i tre finalisti, ma diciamo dopo le prime eliminazioni, erano di fronte in quasi tutti i casi a fotocamere impressionanti per prestazioni, eccellenti per prestazioni, ovviamente sempre nei limiti degli smartphone, cioè lo smartphone non ha il teleobiettivo, mettiamocelo in testa, e se faccio lo zoom faccio uno zoom digitale. Sì, sì, molto bene. Poi per tutti i dettagli andate a vedere su didei.it. devo dire che comunque sia, tra tutti gli 11 non è che c'è un telefono che è particolarmente scarso. No. Devo dire che tutti stiamo parlando delle... però di tutti i top di gamma. Sì, certo. Se dopo si scende nell'ambito di tutti i produttori all'interno della gamma, beh, è impensabile che uno smartphone da 299 euro chiaro, 199 faccia le stesse foto. Sì, quindi stiamo parlando di top di gamma. Stiamo parlando di prodotti che costano 500-600 euro in su. Però di capacità tra l'hardware sicuramente adeguato e probabilmente il software, di fare un buon lavoro. Un'ultima cosa che mi preme dire, perché è una cosa interessante che è emersa discutendone anche con delle persone, qualcuno sosteneva, e anche il nostro giudizio tutto sommato era questo, che il vincitore, quindi l'iPhone X, non fosse la migliore fotocamera ad occhi esperti, ma se fosse sicuramente molto buona, ma per esempio il Note 8 secondo me ha fatto delle foto migliori, forse in alcuni casi anche il Pixel, però è stato il più votato, e qualcuno ha detto: ma siamo sicuri che Apple, per dire il caso di Apple, ma magari, probabilmente lo fanno tutti, non abbia calibrato il software della propria fotocamera sui gusti delle persone. Cioè che in realtà quello che noi abbiamo fatto con MasterClick non venga fatto abitualmente durante la messa a punto di uno smartphone, facendo vedere a un panel di persone decine, centinaia di foto, dicendo scegli la migliore, scegli la migliore, scegli la migliore. Come qui si parla molto di intelligenza artificiale, come addestrare un sistema esperto non tanto sui parametri degli ingegneri che dicono questa è la foto migliore perché qui il dettaglio qui, ma semplicemente facendogli imparare al telefono che piace i gusti della gente. Noi abbiamo valutato i gusti delle persone, i gusti delle persone dicono che quelli sono i tre migliori telefoni. Sono le foto migliori? Tecnicamente un fotografo sceglierebbe quel telefono? Non lo so, ma la gente sì. Bene, grazie a Gianfranco Giardina che tra pochi giorni partirà per Las Vegas, dove solitamente all'inizio dell'anno, devo dire quest'anno un po' più spostato in avanti. Meno male. Esatto, così non ci si rovina le feste. Il Consumer Electronic Show, che non si dice più così, ma noi in italiano diciamo così, sì, per non dire CES. Certo, però non è, cioè, non gli americani dicono CES, ma anche in italiano CES fa un po' ridere. Vedremo quello che succederà e quali saranno le novità. Gianfranco, ci risentiamo ovviamente o durante o dopo il Consumer Electronics Show. Benissimo. Buon anno. Grazie mille, altrettanto a tutti. E così chiudiamo questa puntata di 2024, chiudiamo anche il 2017, dovremmo abituarci velocemente a scrivere 2018, come sempre magari le prime settimane uno si sbaglia. Come sempre io ringrazio i nostri ascoltatori per l'attenzione e in questo caso aggiungo anche gli auguri di un buon 2018, un buon anno nuovo. Ci risentiamo la prossima settimana.